Una notte così, da quant'è che non venivi qui a stare nudi e dire amore tutto ok. Una notte così, se ti va possiamo estinguerci, puoi dire no e fare finta che non vuoi nemmeno un bacio, però ti piaccio, però ti piaccio. Puoi fare finta che tra noi sia solo ghiaccio, però ti piaccio. Stiamo insieme tra le iene, tutto ok. Vieni a vivere con me, tu che vuoi. Prima parlane con lui, cerca di essere seria. Saperti lì, puoi dire no e fare finta che non era sul tuo viaggio, però ti piaccio, però ti piaccio. Puoi fare finta che tra noi sia solo ghiaccio, però ti piaccio. Stiamo insieme tra le iene, tutto ok, tutto ok. Vieni a vivere con me, tu che vuoi, prima parla.